sto arrivando. Cioè qua no, lo continuare, sono Bucci. Lascia stare così un attimo, stesso c'è un lato. Senti bene, sì. Tu sei un po' cupo, Antone. Adesso vado un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Migliorato tantissimo. Tu, Antone, lo ammetto, come mi ascolti? Ok, adesso c'è mia sorella, che ho cambiato palacchina, vediamo se la senti. Alla poggio, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, quanto più. Antone, ho sentito il beat, ma la modulazione non va, eh. Almeno da me qua non arriva. Da me è aumentata. Da 9.40 a 9.50 è arrivata, quindi c'ha l'effetto ecco. A casa mia arriva tranquilla. E con la magnetica mi figurati tu, Gabi. Beh, io Antonè sono anche un punto nascosto e quindi magari che mi arriva a me è un po' difficile, è un po' difficile. Ma lei a me mi copia? Va bene Giovanni, c'è problema. Lei a me mi copia, Antonè? Non lo so, penso di sì dopo. Adesso ho un attimo da mangiare. E poi rientra, ecco già mi chiama fra un po', capito? Appena rientra. Adesso mangia e poi rientra subito. Penso comunque già ti ascolta lei, perché il produttore si sente tutti lì, da casa sua. C'è la magnetica dalla... Hai capito? La Turbo 2001, quella caricata, quindi. Positivo. Ascolta Antonè, una cosa, ma da te come modulazione, come ti arrivo? È forte, è chiara o è satura? No, no, è chiara la modulazione tua, perfetta. Io sto usando un Turner più 3 col 450. La voglia che esce bene, c'è la camera. Positivo. A me bene mi senti, sì. Sì Antonè, adesso ti sento bene, adesso poco fa eri un po' cupo, cosa hai fatto? Niente, non ho fatto niente, adesso avete spostato il microfono da sinistra a destra, basta, no. Poi tutti gli altri parametri sono tutti uguali, niente, non ho toccato niente. Ora, poi vabbè, se sente il rumore del sottofondo magari, della ventola, quello è logico. Sì, vabbè, quello non interessa, però se te lo allontani ancora di più esce ancora meglio, Antonè. Ehi, aspetta un attimo. Guarda un pochettino, ho sceso il marciglio un pochettino, guarda un po'. Ma adesso sei un pochino bassino. Allora, se leviamo qua adesso, guarda un po'. Così sei a secca, così va bene, Antonello. Ok, meglio così, sono contento. Però ti porti dietro molto il rumore di sottofondo, Antonè. Vabbè, lo so, non ci posso fare per il momento. Aspetta, attacco il microfono normale, così almeno va meglio, là. No, ma lascia anche questo che va bene a futidini. No, ma si dirà... Vabbè. Quindi la verità va bene, sono mezzo sordo. Però il rumore di sottofondo così tanto alto non lo sento, la verità. Capita, no, mi sono ammazzendo. Vabbè, io sono un mezzo sordo, ne ho 6 orecchie, quindi aspetta con il microfono normale e siamo a posto, va. Guarda un po', Gabri, adesso sono con il microfono normale. Allontanate un po' la bocca e si addama. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ecco qua. Perfetto. sono contento, sono contento. Poi chi c'era di altri nel canale Gabri? Cosa Antone? Ho detto nel canale che c'era qualcun altro, boh, non lo so, la verità. Boh, ti sento un pochino basso, comunque boh, non lo so Antone. Ti stavo chiedendo chi è che c'è rimasto dopo di noi. Ah, nessuno, non c'è nessun altro. Stanno tutti cenando e non c'è nessun altro, Antone. Siamo io, tu e Rose. Ah, allora già va bene, cazzo, ci mancherebbe. Va bene, meglio così. Come sei? Vabbè, sei a casa oggi, cioè questa settimana. Non c'è nessun evento, nulla, non c'è nulla. No. Oggi è la festa delle donne, oggi è la festa delle donne, sono solo a casa, le mie sono uscite a fare festa e io sono qua solo a casa e mi dedico alla radio. Beh, quando mai non c'è un evento musicale, uno spogliarello, qualcosa del genere, uno spogliarello, altro che spogliarello, no, dai, no, che fra poco ci fanno i mutanti da avanti, altro che spogliarello, Antone. No, che fra poco si ribigliano i muro i mutanti, altro che spogliarello, Antone, a carità, teniamoci i vestiti finché ce li lasciano. Speriamo che ti lasciano almeno lo stipendio, la pensione. Non ci sperano vivi. E tra un po' si prendono anche quelli, non ti preoccupare. A me pensione per il momento non me ne prendo, perché io ancora, prima di andare in pensione devo da fare. Se ne prenderò pensione. Però finché ci lasciano i vestiti teniamoceli, perché secondo me fra una ventina d'anni se ci troviamo siamo tutti nudi. Ventina d'anni? No, io dico fra 2-3 anni che siamo tutti nudi, te lo dico io. Perché è un casino, hai capito? È veramente un casino, non so più come... Siamo già di sotto, capito? Siamo fregati solo di vedere... per gli affari loro del PNRR con la scusa, eh? Oddio, si è fatti, capito, si è incassati i cazzi suoi. Quindi a un certo punto ne sono spariti parecchi, non sanno come dire all'Europa, dice io li ho consumati per fare quello, io li ho consumati per fare quell'altro, eccetera, eccetera, capito? Quindi siamo in mezzo alla merda. E non sanno come fare a dire a noi, perché loro i soldi li hanno già ricevuti, ma da parecchio tempo, capito? Quindi allora a noi cosa ci danno a noi? Se dovesse succedere poco a poco, come ti posso dire, un temporale ci porta via mezza montagna, dove cavolo trova i soldi? Me lo spieghi. Già ci abbiamo tutti questi migranti che dobbiamo tenerci di noi, dobbiamo camparli, dobbiamo dargli i soldi, di che è la colpa? Mica la nostra. La colpa dei politici, il discorso è quello lì. È vero, la colpa è di quei miserabili, la colpa è di quei miserabili, Antonè, per carità. Per carità, fanno schifo, fanno. Intanto ti posso dire una cosa. Che avranno sempre ragione loro e dovremmo fare a quello che dicono loro. In un modo o nell'altro, che voglia o non voglia, dobbiamo stare sempre a quello che dicono loro, perché, hai visto, ti hanno fatto fare lockdown, non volevi, tanto ti hai passato un anno chiuso a casa. Sì, poi si sono accorti tutte le balle che avevo detto, Speranza, quell'altro, hai capito? Adesso escono tutte fuori, sono uscite tutte fuori, quindi a un certo punto, non è così, eccetera, eccetera, intanto sono molti 4.000 a voi, che non c'è stato proprio niente, cioè tutti quanti crevati. tu immaginati questo padre di famiglia, parenti, cosa del genere, che, non so neanche perché diavolo sono morti, ma non sei tu a un certo punto, se non sei molto per comodi, che cazzo me l'hai cremato, mio figlio, mio padre, mio nonno, quello che, se non è molto per quello, tutti assieme, cazzo siamo messicani, hai capito? Ma non hai capito che è stata una cosa per sottometterci, è stata tutta una cosa per sottometterci, per carità, siamo in troppi al mondo, Antonio, siamo in troppi, dovevamo fare un qualcosa per sottometterci, aspetta, non è finita qui, e non è finita qui, siamo schiavi dei vaccini. Col cazzo mi faccio di quattro vaccino, te lo sto dicendo, se me mi dicono di fare quattro vaccino, vado lì, cazzo, e pungo il medico, pungo, te lo dico io. Antonè, tra un po' entreremo in dittatura, vedrai. Non credo proprio, guarda, perché se entriamo in dittatura, sta tranquillo io, me. Non ci vuole molto, prendo una ruspa, scendo in campagna, faccio un posto di 300-400 metri, mi faccio il bunker e me ne vado lì a abitare, hai capito? Sapo prendere in culo, la dittatura è quello che è, può succedere quello che gli pare e gli piace. Speriamo di no, però, qua le cose le stanno mettendo male, le cose le stanno mettendo male, Antone. Io lo so anch'io, ma a un certo punto non mi costa nulla scendere 300-400 metri sotto me, nella casa che c'è in campagna, sono 90 metri quadri, a voglia. Mi faccio il mucche, ci metto al matto. Non ci arriva, va con la bomba, te lo dico io, mi faccio entrare tutti gli impianti come si deve, mi faccio l'otto dentro, te lo dico io, il campo di vendita. Antonetto, lo sai cosa ti dice Gavino? Eh? Lo sai cosa ti dico io? I cura a gattocca. Quello sì, il primo che fatto già lo sai che sono la Polonia, la Lituania, eccetera, eccetera. Tanto fatelo quelli, dopo lui deve arrivare fino alla Germania, il discorso suo è quello, vuole fare la stessa identica cosa che ha fatto con l'altro, te ne guarda, arrivare fino alla divisione dei blocchi, dei due blocchi, capito? Polonia, Lituania, Estonia, la Georgia, eccetera, eccetera, tutta roba russa. Ehi, da sapere da sa. Antonio, aspetta un attimino che c'è la macchina da cancello. Ehi. Pronti, 1, 2, 3. Qua siamo, pronti. Sempre informato, ovvero? Sempre informato, non c'è problema. Dai, zì. E allora, come andiamo, cavaliere? Tutto bene, grazie, e tu? Anch'io. A voglia. Manco mai. Ma come sei venuto una volta? Ti ricordi sei venuto a Nico insieme a noi quando siamo andati a prendere la pizza, ti ricordi? Al monte? Ah, sì, sì, sì, già. Dammelo ricordo, comunque no, dovevo andare solo, ma rispetto, se vuoi il fine settimana, se mi va bene. Quando vuoi, non c'è problema, vieni. Quando vuoi tu, non c'è, tanto sono 10 minuti, non è che devi andare a metti 50 birre, no? Una cosa basta, poi entriamo a casa, non è che dobbiamo andare in giro tutta la notte, ma si va così. Vabbè dai, si vedrà sabato sera se ho da fare oppure no. Va bene mica, non c'è problema, va. Io sono qua. Perfetto, neanche se ti aprire. Padre, non c'è nessun problema, se vuoi venire, sabato intanto appunto già lo sai che dobbiamo, siamo di là, con tua madre, quindi. Vabbè, tutti da lì, non c'è problema, adesso io non so niente nemmeno che c'è la verità, perché non ti ricordo niente fino al giovedì. Giovedì ma tra che ore ti dico il menù che c'è per sabato e poi si deciderà. Vabbè, io vi saluto, buonanotte a te. Mi lascio con mamma in cucina, va bene. D'accordo amico, a dopo, da. Cioè domani al limite. Buonanotte, buon tutto amico, buonanotte, buona smitta. Io vado grazie, perché devo stare in cielo, non sta. Va bene, non c'è problema. Ok. Comunque il segnale è uguale, guardate che segnale non c'è, c'è la potenza da un apparecchio all'altro, dal tuo a quello che ti ho dato è uguale. Quindi secondo me è la base di cosa? Di roba di microfono all'interno. Adesso lo provo, là. Così faccio la prova e vediamo un po' che differenza c'è. Se esce bene, se esce male o cosa, boh, adesso lo vediamo un po'. Non è che devi lasciare la porta aperta stanotte, che c'è, tacchi il piede dal baracchino e ce lo metti sopra la lavatrice, hai capito? Poi domani ci pensiamo noi, tutti e due, hai capito? Poi cioè, si mettono da una parte, si mettono dall'altra, tanto c'hai 40 metri di cavo, c'hai la voglia. No, ma tanto dopo il piede dell'antenna la se avevo avuto un coso che non si vedeva la cosa, il cavo, tanto quello stava messo sopra il tetto, no, questo è poco ma sicuro. No, adesso vediamo un pochettino. Intanto che quello di sotto di casa tu ha messo un cazzo con la specie di geggio che non si vede niente, ha calato sopra, ma no, non si vede nulla. Facciamo scendere il cavo nel fianco e hai capito? E allungo il cavo e c'hai l'antenna sopra il tetto, non costa nulla a me, se non metti il cavo non mi costa niente a me, capito? Se vediamo un po', aspetta che attacco il baracchino che ti è stato fatto, così vediamo come esce, vediamo se esce bene, se esce male, se, che difetto ci abbia, boh, adesso vediamo un po', aspetta un attimo, 2 minuti, sono il cavo, con il cavo non te ne accorgi, invece con quello tuo vediamo un pochettino cosa esce fuori, aspetta un attimo. Avanti, chi è? Bobotti. Beh, Cavatappi. Boboi. Dormi 2 settimane, sei un po'olino. Beh, Antonè, allora. Ora. Aspetta un attimo, sto guardando. Oh, ok. Allora, Antonè, chi è? Chi c'è? Ha fatto la battuta a Torino Kawasaki, dopodiché è sparito. tu sei pompendo i cavi. Cosa, Antone? Tu stai pompando i cavi. Sto pompando? Vabbè, penso di sì, sei 9:10. Vabbè, aspetta un paio di giorni e poi ti faccio sentire mia sorella che pompa. Eia, eia. E ti faccio schiattare. Cosa vuoi? Una sorella che pompa? Nel senso di potenza, non dei soldi, ma... Hai detto, ma una sorella che pompa, ha detto, sì. No, no, ma scusate. Ha detto così, aspetta mia sorella che pompa. Aspetta che disgraziato che sei con la verità, sei disgraziato. Pompa nel senso che se cresce forte, non che pompa a fare altre cose. E allora specifica. Buonasera. Ciao. Ciao Franco, buonasera, buonasera e ben sentito scheggia, buonasera e ben sentito scheggia. Ciao, hai compreso? Dammi il budica giù compreso l'aria. Vabbè, fatto capito male, non ti preoccupare. Cazzo, a sorso capite tutti male, caro. Se uno dice briciolo di maiale, no, briciolo di pollo, caro. Ma lo sai qual è il tuo problema? Che abiti? È troppo vicino a quell'ospedale. Almeno, sa che c'è ragione, se fosse stato in via Vizzendo, hai capito, avrebbe dato già la pensione a questo punto qua, avrebbe fatto lo scemo, la verità mia. Sei stato in giro tutti i giorni, sei stato manco a macchina, mi sei comprato il 70, il 140, il cosa. Quando mi avrebbe fermato uno, dice, ma cosa stai comprando lì? Guardi, io sono esaurito, ho la malattia, come si chiama, non compro sigarette perché sono malato, non compro, come si chiama, perché sono malato. A me questa palla che mi compro, l'avrei detto, mi scusi. E cosa se ne fa? Me il sacco in culo, le avevo detto. A uno a uno. Allora, così l'avevo risposto. Oh, Antone, tu se vai vedendo con un sussinco in chiavi e con un sussinco di coglio. E noi comprendiamo sempre le cose che ti volimo. Ma poi stai dicendo, cazzo, solo perché cosa deve fare di quello? Secondo te cosa me ne faccio? A divertirmi, cosa faccio? A questo non ci vado, a bagazzo non ci vado, a un certo punto cosa fare? Ah, mi compro un po' di apparecchi, mi compro quello, mi compro quell'altro, e cosa deve fare? Me ne sacco in culo. Oia, le prendi fra. Cappa, Gabri, in ciavi, no, sì, sono nato qua, però mi sono fatto grande tutto l'altro parte. Positivo, positivo, no, scherzo, dai, era per ridere. Oioia. Ecco cosa ci vogliamo fare, prendiamolo così, come viene. Vero, già lo credo, come viene bene, il discorso è quello, a un certo punto, se bisogna, siamo a posto in questo periodo, ogni tanto ce n'è una, se guarda il televisore è meglio che non lo guardi, qua. Prima il Covid, poi quello, poi quell'altro, eccetera, eccetera, a un certo punto, ora tutto. Cazzo, sai cos'è? È probabile che abbia capito male io, perché è probabile che magari non ti arrivo bene, perché non è buona la modulazione. Vabbè, già ci arrivi in modulazione, non è quello il problema, non ti preoccupare. Scusatevi, ma non vi stavo seguendo perché stavo guardando delle foto e non mi stavo seguendo. Fra, scusatevi. No, ero dicendo, probabilmente ti presumo io che non tu si è piegato ma chiedo e che non arrivo mai a sasso. caso di Sassuri, Enoch. Ok. Ok. Eccolo qua. Bene, va così. Ammazza un'altra appena anche l'amplificazione del microfono, mi sa. E no, il microfono te lo posso abbassare. Ok. Vedi a vedere adesso? Perfetto, perfetto, perfetto. Scusa Franco se te l'ho detto, però era dovere. No, no, è fatto bene, perché non me ne ero accorto. C'avevo anche lo smitter del rosmetro spento, c'avevo, e ce l'ho acceso, e ce l'ho preso. E quando scalda questo se ne andano tutti, lo stavo usando in altri punti e poi l'ho lasciato, l'ho scritto, va bene, niente di particolare. Allora ti ho detto. Dimmi, aspetta, mi hai distratto Simona più che altro da mezz'ora fa, quindi non ho capito la fanculo di quello che avete detto voi, Non hai capito la fanculo, non te l'abbiamo mandato noi la fanculo. Ho detto che non ho capito la fanculo di quello che avete detto voi, perché stavo seguendo a Simona, quindi cioè metà una cosa, metà l'altra, quindi a un certo punto ho interpretato delle cose diversamente, mi hai capito? Tutto lì. Fate pure Rogero, ora ti Gabriele. Dobbiamo rifare il discorso da capo. Sicuramente. Fagli il discorso da capo. Allora, eravamo rimasti. No, vabbè, non te lo faccio, dai. Non te lo faccio. Da quando è entrato Franco, che ha detto una cosa. Ecco, chi è rimasto incinta, lui o io? Cosa hai detto? Io? No, quello proprio, a me mi funziona ancora. Ma non ho capito cosa hai detto. No, capito a mille. Sì, questa qui. Vabbè? Sì. No. Anche domani mattina. Ehi, fino adesso però, cazzo, scusa. Sì. D'accordo, ok. Sì. Ciao. Sì. A dopo. Io guarda, non mi faccio più impresario, guarda, meglio vecchio. Cosa non ti fa impresario? Ma se devi andare di cittadinanza, come ti va a fare impresario? Che cosa che c'è un poco fra un mese? Ma amato, sì. Ma è bravissimo, o poco pigliare di cittadinanza, o poco pigliare un coso dal comune, e a me si diventa impresario. Stanno con bene, chissà cosa. Ah, poco andiamo a cosa, mi piglio un decifugliatore e vado a tagliare erba, lì dove ci sono le scuole, hai capito? Mi faccio pagare il nero. Vado con il decifugliatore e dico, guarda, o mi date il soldo, se no prendo, cazzo, faccio, e rimando tutto in via, cazzo. Tu devi fare come ho fatto io, ho aperto un salone di barbiere, ho aperto, ci ho messo dentro due ragazzi e fate di bere a motosega. E appunto così faccio io, fate uguali, dato che ci voleva 300 euro, qual è il problema? Mi piglio un decifugliatore, mi metto d'accordo col comune, dico guarda io voglio tagliare questa erba qui, io voglio per dire quanto vuole al mese, io a me in un mese mi servono 3.500 euro, dico, compresa la benzina, a fare i vostri soldi, dico. Oh, voglio. Comunque capisci, non sono nemmeno tu che vuoi venire, non hai bene. Io mi taglio le bere ogni voce nella due mesi. Fra, io mi taglio il capello ogni volta nei due mesi. E pago per come ce l'avevo da ragazzo, che erano ricci, e da variava più. Un maccione di rui in capo. Non riuscivo manca a pittinarmi. E adesso li ho persi tutti. Quasi no, vabbè. No, già se me li faccio crescere ce li ho, non è che capita, vado adesso un capo di bere. Però me li faccio sempre un pochino corti, un pochino a raso, perché non li sopporto più, capito? Non sopporto più la chioma. Cazzo. E certo, ormai anche i barbieri stanno andando a farci forte. Sì, e beh, guarda che sembra così. Capita pure andare a tagliarti di bere, a vaga tu poi, c'ha 15 euro. capito, io ci vado ogni due mesi lo stesso, perché me li faccio corti corti a macchinetta dal barbiere e pago 13 euro. E a chi ti basta la macchinetta e fa l'impresa? Fatti un taglio diciamo curato, cioè, non curato, un taglio di precisione, a vedere quanto ti piglia. No, uguale, 13 euro prende, quanto prende a me prende a quello là. Ah, va bene, allora conviene. Promotore, mi sa che 15 o 15 o 17. Dipende dai paesi, dai, in effetti variano. Qua aumentato, quest'anno ha aumentato di 3 euro, ha aumentato da 10 e ha aumentato di 3 euro. Poi addirittura se aumenta, me la compare giù la macchinetta. Sì, io ho la macchinetta lo stesso. E a volte quando mi ritrovo un po' lunghi ai fianchi, mia moglie prende, dico codimi una ronziata, io figlio mi codo una ronziata, due minuti e me ne vado bari. E infatti è così, quasi conviene. Avanti Antonè, tu dove vai? A farti i capelli? Alla centifoga? Dal veterinario. No, io vado a cosa? Dalla motosega. Motosega? Quante volte ce l'ho io, con la motosega. No, a volte non ce l'ho. L'unica cosa, il difetto che c'hanno quei ragazzi, che non vedono mai le orecchie. E sto dicendo che a me non mi fanno bene i capelli, scusa, con la motosega mi è fatti proprio dal comune, mi non hai capito, non pago niente, perché è completo del reddito di cittadinanza, quindi figurati tu, prendo la motosega, dice venga qui, non c'è problema, ti facciamo anche i capelli, e sono a posto, fino ai prossimi due mesi, dopodiché che cazzo devo andare a farmi fare da solo, hai capito? Ma ho capito male, oppure c'è il barbiere del comune da voi? C'è il barbiere qui, non ho capito il comune di Sassari, c'è il barbiere per quelli che hanno diritto di cittadinanza, quindi andiamo direttamente lì e scarichiamo tutto, capito? Con l'F24. Ah, pure, servono, e tenga lì. Ehi, oioia, va bene. Va bene tutto fra la Sarivassi Nova Zeribicio. E comunque. Voglio una giugana, riprendi Antone. Aspetta. Eccolo qua, ci siamo. Come non hai voglia, dimmi tutto, cosa è successo? A chi so, perché Antonio sono andato stamattina a freddo, io su Cudriburendi, ho finito che era l'una meno un quarto, però io sono andato stamattina a freddo, io sono dalle stamattina alle 5 meno 20, erano le 5 meno 20 stamattina quando sono uscito dal cancello, quindi la sveglia era alle 3:15 ieri mattina alle 3:15, vedi giù si riposava in Ghana Afra. Capisco, non mi manca per niente quello. A tutti i ruri, mamma i turchi. Come si suol dire, capita, se ne vuoi te ne devi da fare. Io non lo so, e mandarono a stessi, e domani mattina lo stesso. Però prima di quell'ora non riesco a dormire. Io magari vi corri cosa, ne so, a mezzanotte, porto tutta una giornata compreso, faccio tutta una tirata e alle 3:30 sono sveglio e poi su va tutto quanto di su, però arrivi la sera alle 4, alle 5 che sei a pezzi, io a volte retro a casa la sera che sono le 5, le 6 e sono la Allora, è successo, non l'altra volta, a novembre, è successo che la mattina sono uscito, erano le 4 e un quarto, sono entrato la sera alle 9 e mezzo, alle 21 e 30. Stavo mangiando e mi si è cuta la faccia, l'ho biatto dall'usono fra. Capita, guarda, io aspetta che abbasso questo flusso, ecco, capita, perché io spesso quando facevo i turni era un casino, e poi è tutto questione di abitudine, una volta che ti abitui, non riesci, la notte non riesci neanche ad andare a letto prima di quell'ora, che io prima di mezzanotte non ci andavo mai, eppure mi alzavo alle 4 di mattina, mi alzavo, però prima di mezzanotte non mi bucavo la sera, è abitudine, e poi addirittura se si dava la sveglia te ne bisavi tranquillo e affrontavi la vita. Sì, lui succede a me, anche io sono così, però poi magari ora succede che il sabato pomeriggio, magari il sabato mattina sono a casa, che mi ultimo il lavoro per esempio del venerdì sera, che me ne voglio andare prima, me ne voglio andare verso le 4, 4 e mezzo, dico magari vengo domani mattina, magari mi faccio qualcosa di domani mattina fino alle 10, però sabato dopo pranzo, fra, ne accuso, ora. Mi sveglio anche alle 6 la sera, 6 e mezzo, e dromo, beh. Ma è così. Purtroppo la franchezza fuggì a culo. Io facevo la notte e poi c'è stato in giro. Così. Da che arrivi a casa, la sera, i bambini, separavi un metro sacco di battati, purtroppo è così, capì? Il lavoro è così, quando c'è un lavoro del genere si stanca, è un bene anche. Avanti Antone. Adesso ho cambiato malattia, dammi un po' controllo come sta uscendo, 1, 3, 4, 5, 6, questo è il 2009. Male, sta uscendo. Adio. Segnale 6 e mezzo 7. Tanto me. 5. 6 e mezzo 7. E radio 5. Ok. A te Gavi. Da me Antonio 6, 9, 5, la radio è cupa. Io ti sento sempre cupa, Antonio, forse tu ti attacchi troppo al microfono. Ah, va bene, va. Andiamo solo per regolare i cosi qua, i parametri in questa baracchina qua. È come che ha comprato Giovanna, il 2009 nuovo, capito? Solo che i parametri sono sbagliati, e quindi adesso li regolo e vediamo un po' come funziona, vediamo se gli fa il difetto lì che ce l'ha poco fa. Però io non è, ti dico una cosa, un po' di anni fa non ti sentivo così cupo, eri sempre bello, chiaro, eri un esempio, però adesso ti sto sentendo sia con questo qua, pensavo che era il 140, però mi sono accorto che anche con questo qui a me mi arrivi cupo. Quindi una elettrica alla volta, Antonio, anche se no, se, almeno per quanto riguarda il mio comprendonio, no, beh, per quanto riguarda il mio dito, Antonio, sei un po' cupo di radio, soprattutto col Kenwood. Ti ho capito, però devo anche regolare l'eccezione, non solo l'altro, Non si sa l'eccezione, quello già la faccio io adesso. Fa un po', adesso vediamo un pochettino. Chi mi ha detto che sto uscendo male? No, stai arrivando bene a me, ciao. Sicuro? Sicuro. Cosa? Alla tosse. Ho capito Gianni, già va bene. Ok, qui sono contento. Sì. essere come prima, l'apparato girarlo in modo da controllare il sistema lì, e lo smetto. Poi l'LC e l'MC dovrebbe essere a posto, dopodiché l'apparato. Questo tema del 9. Il resto va tutto bene, ho visto? Attore. E io. Ma dove stai morendo in diretta? Ah? Ma parlare mai della tutta mara, non sta. Ho detto, non è che stai morendo, che ci muori in diretta. Oh no, allora sono. C'era uno che è morto in diretta un sacco di anni fa. Non io ricerco la verità, eh. Ok. Adesso sono a posto. Appena parla di problemi. Adesso sono a posto, tranquillo. Lasciala stare la bottiglia, la birra, tu, così lo. Sì, Antonio, 27.077, così è. No, 27.075. 27.075, così sì. 27.075, hai capito? Ciao, lo sai che qui c'è sotto, per maniaco di Franco Rissoso, poi gli dove. Oh Marino, che stai combinando? Ma con chi stai parlando? Aspetta. 27.75. Fra, lo sai che c'è nel canale? Non lo so, non ho capito, io stavo parlando con te e invece non stavi parlando con me. Con chi stai parlando? Che io non lo sento. Beh, io tu Gianni? Non mi senti a me, non c'ho antenna, capito, so se no. L'altro tipo di antenna non ci arriva a sosso, se a sosso. Allora, che è entrato adesso già nel lune e sole, capito Fra? Capo, ma io non lo sento per niente. Ti sentivo parlare, però non ho capito chi eri. Comunque, non so se mi ascolta Gianni, salutoni dai, io non riesco a tirarlo fuori. No, io già ti ascolto bene, arrivi bene, ma sto usando l'antenna radio amatoriale, capite, non va bene per questa frequenza. Altro che lui ti ascolta, quindi sta usando l'antenna di 10 metri, tu non ascolti a lui in pratica, capito? No, lui a te ti ascolta. Capo, mi dispiace che non riesco ad ascoltarlo. A te ti lo fuori, ma a lui niente, zero proprio. Infatti poco fa ho detto, ma con chi sta parlando questo? Non capivo com'era. Avanti Gavino, tu non senti tu a Gianni Lune Sole? Gavino? Fuggidua. Ci deve essere un canastro, ci deve essere. Hai detto tu? Io avevo conosciuto subito appena entrato. Adesso, dato che siamo qua Gianni, fai una cosa, prenditi l'UHF e vai in mettici la frequenza 446081.25. Ti chiamo la volontale? Sì, sono lì, ce l'ho l'accesso. Adesso ti chiamo, aspetta, è così, tanto siamo vicino a casa, quindi mi senti la forza. Fai come te in gomma. Oh Fra. E io. Ma con la televisione fa vedere Antonello? No, con Gianni Lune Sole, ma tu non lo senti? No. Stavo parlando con Gianni Lune Sole, già ho capito che. Però io non lo tiro fuori. No, neanche io lo distriscio, ma non capisco, cioè sento la portante, sento che c'è qualcuno, però non riesco a tirarlo fuori, capito? Quindi non lo comprendo nulla. Dito in parole giari. Sì. Però Antonè, ma dove sei? Sul 466081? Allora, 446081.25 fra. Prova a ascoltare. Adesso io sto parlando, sia qua, sia in automatico in 446, con la tua gomma, non con la tua telefono, con Gianni, intanto siamo vicini, non c'è bisogno della tua telefono. Ma mi conferma vedere se mi ascolti lì. Sì, allora sono 446085, non so se mi ascolti. Io ascolto tutti. Sì, sì, sì. Allora, 446081.25 ho letto. Quello lo so, ci sono già io, ce l'ho sempre memorizzato. E mi devi dire se mi ascolti. Io sì, prova a parlare e devo ascoltare anche lui. Guarda che vado a Franco, c'è la cosa. Sì, anch'io, quello che adesso più sono sempre me. Sì, sì, ascolti, ascolti. Quello che ho detto qui chi è? Non lo so, penso che sia Franco, non lo so. Però poi fra, hai toccato fra, il 27, il 446. Non mi hai sentito, no? Vabbè, dai, figlia della vita. Allora, è sparito. Davino, ma tutti sono spariti. Fra. Aspetta che sto facendo la tua scherma, la tua da U. Franco. Franco. E io capito. Sto a mandare 446100. Ci sono da lì. E la 1 3 4 5 6, prova. Gianfranco la scimmia. E Tino Galli, saluto. Ciao Tino, io sono anni che non lo sentivo più. Bravo. Ma mi sembra ultimamente che ci siamo visti in un posto, però non me lo ricordo. Chi è Antonè? Ricordamelo, Gianni, chi è? Non so presente. Gianni di Una Sole. Ah, carissimo Gianni, cavolo, ci siamo visti tanti anni fa. Infatti, ormai i tempi passano. Bene, bene Gianni, dopo tanto, mi fa piacere ascoltarti, aspetta che cambio radio, magari te ne ricordi, aspetta. Bene, eccomi qua. Ciao Gianni, ben ascoltato dopo tanto, dai. Parecchi anni, vabbè, già, l'importante è sentirsi sempre giovani. Ma all'età già c'è, anche se sembriamo di essere giovani. Non posso parlare poi perché sto usando VHF, VHF non è un'antenna CB, capito? E ho paura che sia più tutto qua. Io vi saluto e un abbraccio fraterno. Già ci sentiamo la notte, adesso entro e vi ascolto a me. Ciao, statemi bene. Va bene Gianni, dai, ci si riascolta, dai, fate sentire che fa sempre piacere. Già, basta per la cosa lì, la bombola. Antonio, com'era quella radio? Tieni conto che ho un po' male. 5, perfetta. La radio, guarda la vetta. A voglia va benissimo, per come stai uscendo, a voglia, basta avanza. Vabbè, questa è la mia solita, quindi non te lo chiedo neanche. Vabbè, quello è logico. Lo sai già bene se ne voglia, quindi. Andare. Volevo dire una cosa a Gavino, non so se è a radio, Gavino ci sì. Allora, quando sarà glielo dirò. Bene. Quanto ti sta arrivando, Antonè, con questo? Sei quasi nuovo in questo barattino qua, la verità, non è mio, è quello di Giovanna, che ho comprato 2 settimane fa. Se no è nuovo, la V5, sto usando il 2009. Sì, lo so, sei fedele tu a quella radio. Lo so, e lui c'è il conosco a mio amico. Figurati, a casa, guardo il mio poco fa, perché stavo uscendo un po' male, poi non ho capito perché invece è roba di alimentatore, pensavo fosse roba di barattino, c'è roba di alimentatore, perché quello pompa di più, questo qui in pratica, assorbe di più, quindi a un certo punto arriva a quello che fa ho capito, va bene, comunque già funziona bene, quello non posso dire niente, ho fatto un buon affare, però in realtà io cosa vuoi di più, un lucano, non lo volevo nuovo. A voglia allora, andiamo bene. Adesso aspetta solamente di trovare lì un bel coso, 70, come voglio io, nuovo, a poco prezzo, e lo prendo subito al volo, perfetto. Ti interessa un 450? Adesso no, per il momento questi giorni no, la verità, ma il prossimo mese è probabile, perché c'è da pagarmi più che altro la quanto costa il 450, c'è da pagarmi la cassa bondesa, quindi tu. Però il prossimo mese, siccome Giovanna è interessata al mio 80, cioè al 140 mio, dice mi regali quella a me e tutto è per il merito d'altro, però beh, a me non costa niente, gli ho detto, se proprio lo vuoi regalo, però non c'è nessun problema, io me ne compro l'altro. Vabbè, ma se ti paghi la tassa bondesa devi aggiungerla però me. Non penso proprio, guarda, perché la tassa bondesa è 475 euro, forse devo diminuirla. subscriber. Quant'è che paghi? 400? 475. Diciamo che sei cose nella soglia per poterci arrivare. Quindi a un certo punto mi conviene il prossimo mese, se lo pago l'altro esatto. Lo so, vabbè, cara, ma sono andato a cara, no, io dovrei pagarne intorno alle 200 se non mi sbaglio, quello non mi ricordo. Come ho detto, ti ho dato anche subito i soldi in contatto, la verità. No, vabbè, tieni presente una cosa, che io tempo fa la vendetta la portavo a passeggio in macchina per 3 km, perché il cassonetto più vicino era a Veloce, quindi gli facevo fare una passeggiata. Adesso stanno facendo il porta a porta, però quando vogliono loro e come vogliono loro. Quindi figurati, siamo a posto già. Cosa vuoi dire? Sono cose che succedono, cosa posso dire? La gente che paga più che altro. Invece c'è che non paga un accidente, e grazie a Dio gli va tutto bene. Andare. Mi devi lasciare un attimino, ritorno subito. D'accordo, ok, ci sentiamo dopo là. Lo sento. io non voglio niente di più, ma al limite sono lucano, più che altro. Cosa ci vuoi fare? Ah,